giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Allerta meteo regionale per forti piogge in una frazione di Lattisana, villette allagate, le caditoie non hanno retto, 80 mm di pioggia in due ore, chiusa la strada per Clauzetto. Sopralluogo della quarta commissione del Consiglio Comunale ad una struttura vicino al Silos a Trieste, dove potrebbero essere ospitati i migranti che ora vivono in condizioni al limite. Allenatore di calcio condannato in primo grado a 10 anni per violenza sessuale su minori, ma la Corte d'Appello di Trieste ha annullato la sentenza per vizi procedurali. Arrestato un 20enne afghano senza fissa dimora, a Trieste ha sottratto una tessera bancomat a un macedone che stava facendo un prelievo. I prezzi aumentano a Trieste e diminuiscono a Udine, ma incidere soprattutto la voce relativa ai servizi ricettivi e di ristorazione. Nel primo trimestre del 2024 la fiducia delle imprese del terziario in Friuli Venezia Giulia verso l'andamento dell'economia italiana è in lieve calo, ma migliore rispetto al dato nazionale. 260 gli eventi della rassegna di teatro, musica e spettacoli Trieste Estate. Questa mattina la presentazione del cartellone in sala Luttazzi. Ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In vigore fino alle 12 di domani l'allerta meteo arancione per piogge intense che finora hanno interessato soprattutto la fascia occidentale della regione, ma anche la bassa pianura. I problemi principali è la tisana. Sentiamo. Quando ho aperto la porta mi è venuta acqua addosso, ero tutta bagnata anche io, era tutto fogna. La fognatura, tutti i fossi erano pieni e a un certo punto non siamo più riusciti, insomma, a saltarne fuori e quindi vedete i risultati. Troppa pioggia. Alle 4:30 di notte a Pertegada di Latisana, il punto in regione in cui ha piovuto maggiormente, le condotte fognarie non reggono più. Cadono 70 mm di pioggia in poco tempo, di questi 40 mm in un'ora soltanto. Un fenomeno atmosferico che ha un tempo di ritorno dai 2 ai 5 anni. Anche con le idrovore a pieno regime, le tubazioni non sono riuscite a farvi giungere tutta l'acqua. Si è riversata nelle case, venendo su dalla doccia, dai sanitari, dai tombini. Niente. È venuto su tutta l'acqua, niente, è da buttare via tutto, i divani, tutto. I vigili del fuoco di Latisana e i volontari di Legnano intervengono per svuotare gli scantinati con le pompe. In un condominio c'è 1,5 metri d'acqua nel vano ascensore. Roberto Granzinig, dei vigili del fuoco del distaccamento di Latisana. Abbiamo staccato la corrente elettrica e stiamo aspettando l'idrospurghi per aspirare l'acqua appunto da questo scantinato, in quanto l'acqua è sporca d'olio e quindi non si può buttare fuori nelle fogne. Poco più in là, in via Casette, l'acqua è arrivata alle villette a schiera dai campi. Bruno Guion, coordinatore della protezione civile di Latisana. Sono canali privati questi qua, per cui dovrebbero pulire i fossi e fare in modo che l'acqua defluisca correttamente. Anni fa è successo ancora, avevamo già riferito questa cosa, ma non è cambiato niente. E noi ci siamo ritrovati alle 5 con 20 centimetri di acqua in casa. Latisana, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime ore le piogge, anche temporalesche, continueranno in modo sparso e intermittente. Una nuova intensificazione si avrà dal tardo pomeriggio e fino alla notte, quando saranno possibili temporali localmente anche forti, specie su pianura, coste e prealpi. Nel frattempo queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 19,5 gradi, Gorizia 17,5, Pordenone 16, Udine 15, Tolmezzo e Tarvisio 12, Forni di Sopra e Sappada 8,5, Piancavallo 8, Monte Zoncolan 5, Monte Lussari 4, Grado 17,5, Lignano 16. Sopralluogo questa mattina a Trieste della quarta commissione del Consiglio Comunale in una struttura vicino al Silos dove vivono diversi migranti in condizioni a dir poco precarie. Una struttura inutilizzata da circa 20 anni. Le porte dell'ex mercato di Via Gioia si aprono per un sopralluogo della quarta commissione consigliare del comune di Trieste. Ci sono anche i rappresentanti di Adesso Trieste, quelli di varie associazioni e semplici cittadini. Il loro obiettivo renderlo disponibile per un'accoglienza per finalità umanitarie, cosiddetta di bassa soglia, per chi vuole restare o proseguire il viaggio, ma anche per coloro che non hanno un tetto. In centro, vicino alla stazione, per chi vuol stare un paio di notti in situazioni però civili, non come quelle del Silos, e questa potrebbe essere l'opzione del mercato di Via Gioia, aperta non soltanto ai migranti, aperta a tutti, perché ci sono anche altre persone in città che hanno bisogno di stare da qualche parte al coperto di notte. Uno spazio piuttosto ampio, uscite di sicurezza, impianto di riscaldamento e servizi igienici con docce. La proprietà è del Comune di Trieste, ma si tratta di una struttura che rientra in un accordo di programma per la riqualificazione dell'area dell'ex Silos, di cui negli ultimi tempi c'è stata un'accelerazione nelle trattative di vendita a privati, fa sapere il Comune. Il sindaco di Piazza sottolinea che l'obiettivo è invece il potenziamento dell'ostello scout di Prosecco Camposacro. Lunedì prossimo verrà portata in giunta la delibera per il passaggio di concessione alla prefettura di Trieste. Da lì i lavori per la sistemazione della struttura di prima accoglienza ad alta rotazione dei richiedenti asilo. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La Corte d'Appello di Trieste ha annullato per vizi procedurali la sentenza di condanna a 10 anni inflitta in primo grado ad un ex allenatore di calcio giovanile accusato di violenza sessuale su alcuni minorenni. Dopo circa 3 anni e mezzo agli arresti domiciliari, l'uomo torna in libertà. Secondo l'accusa, le molestie sarebbero avvenute più volte durante i ritiri calcistici prepartita negli spogliatoi e in auto quando l'uomo aveva accompagnato a casa qualcuno dei ragazzini. Il sostituto procuratore generale, Carlo Schiavicco, aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Gli atti del processo dovranno essere trasmessi alla procura, che dovrà imbastire un nuovo processo. All'ex allenatore sono stati revocati gli arresti domiciliari e dunque, come detto, è tornato in libertà. L'uomo, di 51 anni, era stato arrestato nel gennaio del 2021 e condannato appunto a 10 anni nel marzo del 2023. Ancora cronaca, la polizia di Trieste ha arrestato un cittadino afghano di 23 anni a Trieste senza fissa dimora per rapina. Una volante è intervenuta a mezzanotte in via Locchi presso un distributore automatico bancario poiché un 30enne macedone era stato rapinato del banco ma da uno sconosciuto. La vittima ha fornito agli agenti una dettagliata descrizione dell'autore del fatto, che è stato poco dopo intercettato nella vicina via Tagliapietra, dove è stato sottoposto a perquisizione personale. L'accertamento ha consentito di recuperare il banco ma della vittima. Nel mese di aprile i carabinieri di Aurisina hanno arrestato 5 passer. Il primo, di nazionalità serba, è stato fermato alla guida di un'auto con targa slovena, a bordo della quale si trovavano 4 migranti turchi irregolari. Dinamica simile a Monrupino, dove veniva arrestata una cittadina ucraina che viaggiava alla guida di un'autovettura con targa slovena, trasportando 5 migranti irregolari, tra cui una minorenne. Durante la stessa notte veniva fermato in un ulteriore controllo un autocarro con targa polacca al cui interno viaggiavano nascosti 12 migranti irregolari di origine siriana, tra cui una minorenne. I 2 autisti erano un 30enne di nazionalità ucraina e un 34enne di nazionalità moldava, ed è ucraino anche l'ultimo arrestato. A bordo della sua vettura con targa polacca è stato sorpreso mentre trasportava 7 migranti di origine turca appartenenti allo stesso nucleo familiare. Rischiano tutti una pena dai 2 ai 6 anni di reclusione. Passiamo ai temi dell'economia con i dati sull'inflazione. Su base mensile i prezzi in media aumentano a Trieste e diminuiscono a Udine, ma sul dato incide soprattutto l'andamento di una voce, quella dei servizi ricettivi e della ristorazione. L'indice dei prezzi al consumo a Trieste risulta in crescita rispetto al mese precedente dello 0,5%. Sempre su base mensile, i prezzi a Udine sono complessivamente diminuiti, sempre di 0,5 punto percentuale. La causa sta nella voce servizi ricettivi e di ristorazione, che risulta in aumento su base mensile del 6,8% nel capoluogo regionale e sostanzialmente stabile, con un aumento limitato allo 0,2% a Udine. E la crescita si spiega andando ancora più nel dettaglio. Secondo l'ufficio statistica del Comune di Trieste, è il costo dei servizi di alloggio ad aver cambiato lo scenario. Negli alberghi e nelle altre strutture di ospitalità i prezzi risultano cresciuti in media di un clamoroso 24,8%. Di conseguenza l'aumento dei prezzi tocca fino ad un certo punto le tasche dei residenti. La voce prodotti alimentari e bevande analcoliche, che in sostanza è la spesa di ogni giorno, riporta un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,2% a Trieste. La stessa voce risulta in calo dello 0,5% a Udine. Per quanto riguarda le altre voci, continua il calo delle spese per abitazione, acqua, elettricità e combustibili, meno 3,5% a Trieste, meno 3,6% a Udine. Cresce, sempre su base mensile, il costo dei trasporti, più 0,5% a Trieste, più 0,7% a Udine. Ancora in calo, infine, nei due capoluoghi, il tasso di inflazione tendenziale, cioè il calcolo dell'andamento dei prezzi rispetto all'anno precedente. A Trieste è passato dall'1,8% registrato in aprile all'1,6% dei dati di oggi. A Udine i prezzi sono aumentati in media in un anno dello 0,7%. Il dato 30 giorni fa faceva segnare l'1,3%. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel settore terziario frenano consumi e fiducia, ma l'occupazione tiene a fare da traino il turismo. Un po' meno fiduciose nell'andamento dell'economia italiana e della propria attività, le imprese del terziario della regione dimostrano tuttavia più fiducia rispetto alla media nazionale e quanto emerge dall'osservatorio sul primo trimestre 2024 curato per Confcommercio Friuli Venezia Giulia da Format Research. Si registra in particolare una lieve flessione dei ricavi, mentre è in miglioramento il quadro occupazionale, in espansione si prevede sino alla prima metà dell'anno. A fare da traino il comparto del turismo, che tra maggio e luglio stima 2.600 nuove assunzioni in vista dei quasi 7 milioni di turisti attesi in estate. Migliora la situazione dei prezzi praticati dai fornitori, con la contrazione dei consumi tra i fattori che più preoccupano le imprese, ma la criticità, stando all'indagine, continuerà a caratterizzare l'intero primo semestre del 2024, anche se in generale il terziario regionale risulta meno esposto all'aumento dei prezzi rispetto al resto del paese. Stabile la capacità di far fronte al proprio fabbisogno finanziario, le aspettative a 3 mesi fanno registrare un miglioramento dell'indicatore che al 30 giugno si rivelerà più performante rispetto al dato medio nazionale, mentre criticità si riscontrano nella domanda e nell'offerta di credito, forse anche per la mancata riduzione dei tassi. Diminuiscono le imprese che hanno chiesto credito e parallelamente aumentano quelle che ne hanno bisogno ma faticano a riceverlo. Oltre il 58% ne ha fatto richiesta per esigenze di liquidità e cassa, circa il 5% per la ristrutturazione del debito, poco più del 35% per effettuare investimenti, l'1% in più del trimestre precedente. Si tratta di un momento di incertezza che riguarda soprattutto il commercio, commenta il presidente regionale di Confcommercio Gianluca Madris, che richiama le opportunità offerte dal PNRR e in particolare dal Bando Borghi. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Alessandro Brussi è il nuovo presidente ad interim della Danieli, lo ha deciso il consiglio di amministrazione della società, riunitosi martedì dopo la scomparsa il 28 aprile scorso di Gianpietro Benedetti. Brussi, già vicepresidente, guiderà la Danieli operando in sinergia con la vicepresidente Camilla Benedetti e i due amministratori delegati Giacomo Mareschi Danieli e Rolando Paolone, fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30 giugno 2024 e a nominare il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale per il triennio 2024-2027. Verso le elezioni europee, questa mattina la conferenza stampa di Azione al Caffè San Marco di Trieste. Elena Bonetti, già ministra delle pari opportunità nel governo Conte Draghi, è capolista all'Europea assieme a Carlo Calenda per Azione nella circoscrizione Nord-Est. Azione, che si colloca nella famiglia europea di Renew Europe, mira a costruire un'Europa forte che non sia più ostaggio dell'Orbán di turno e che è contro i populismi di destra e sinistra. Per la politica estera, Elena Bonetti vuole una difesa comune. Per noi la difesa europea è un punto chiave. Vogliamo promuovere una difesa comune, un commissario alla difesa, un esercito europeo comune. L'Europa deve tornare ad essere una grande potenza, lo vediamo in questi giorni. L'accordo tra Putin e Xi è un potenziale pericolo per un'Europa che rischia di essere schiacciata tra le grandi potenze. Dai candidati presenti, Carlo Pasqualetto, Mario Raffaelli, Federica Sabatti, Federico Pizzarotti, è stato sottolineato il pieno sostegno all'Ucraina, mentre sull'ambiente si mira alla neutralità energetica, sì, ma non con le politiche attuali, bensì usando il nucleare e le rinnovabili, come ha sintetizzato il triestino e vice segretario nazionale di Azione Ettore Rosato. Ambiente sì, senza demagogia, stando attenti che bisogna che le aziende e le famiglie possano sopportare i costi. Questo vale per tutto, senza demagogia e con pragmatismo. Dalla segretaria regionale di Azione, Daniela Rossetti, l'invito a partecipare all'Europa che saranno, ha detto, elezioni dirimenti per il futuro di tutti. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. La conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un ordine del giorno che impegna il governo ad adottare una norma nazionale che permetta alle donne colpite da violenza di avere un indirizzo di residenza fittizio. Lo ha dichiarato Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome. Nel caso che lo ritengano necessario, quindi un modo concreto per sopportare il fenomeno della violenza sulle donne, ha proseguito Fedriga, oltre a tutelarne la sicurezza, vengono così garantiti tutti quei diritti, aggiunto Fedriga, spiegando che si permette alle donne di avere una residenza anagrafica fittizia, che dà quindi la possibilità sia di condizioni normali di vita, sia di svolgere le pratiche amministrative indispensabili. Questo servirà anche a ricevere delle comunicazioni e per continuare a svolgere una vita senza rischi o persecuzioni con la nuova residenza. Il comune di Pordenone, su decisione del vice sindaco e assessore alle politiche giovanili Alberto Parigi, ha potenziato il servizio degli educatori di strada. Gli operatori incaricati dall'ente locale per monitorare in città il disagio giovanile sono infatti aumentati da 6 a 10. Parigi nei giorni scorsi li ha voluti incontrare per fare il punto sul loro operato ed eventualmente affinare gli interventi. Gli educatori, spiega il vice sindaco, svolgono un lavoro prezioso e silenzioso, cercano di agganciare i ragazzi che vivono situazioni problematiche offrendo alternative come le attività di doposcuola e sana aggregazione nei centri giovanili comunali. Per accrescere l'efficacia dell'azione degli educatori, il vice sindaco ha dato loro mandato di stringere una collaborazione ancora più forte con i dirigenti scolastici nel rispetto delle competenze di ciascuno. Inaugurata oggi l'ottava edizione del Festival Scienze Virgola in calendario Trieste fino a martedì 21 maggio. Gli scienziati della Sissa di Trieste scendono dall'altopiano carsico e portano in città il Festival Scienze e Virgola. Da oggi al 21 maggio incontri, dialoghi, spettacoli, un programma diffuso che per la prima volta raggiungerà anche luoghi insoliti per il festival, a partire dal carcere del Coroneo, con due eventi aperti al pubblico ma già sold out il primo lunedì. Nico Pitrelli, responsabile comunicazione Sissa. È una performance di teatro e scienza in cui un ricercatore e un'attrice parleranno di un tema fondamentale: what is life? Che cos'è la vita? Le finalità di queste iniziative con il carcere non sono necessariamente educative o di, diciamo, in una tipologia più classica, ma sono appunto eventi che si svolgerebbero comunque. E poi il giorno dopo, il martedì, invece, sempre nel carcere, c'è la presentazione di un libro sulla salute mentale. Titolo dell'ottava edizione, diversità, e per scelta il festival sarà molto femminile. Il direttore artistico Paolo Giordano. Quest'anno vogliamo guardare la scienza da chi è stato marginalizzato anche dalla ricerca scientifica a lungo, e le donne sono probabilmente la categoria che è stata tenuta alla larga dalla scienza più a lungo, pur avendo dato contributi importantissimi. Quindi molti degli eventi principali saranno con ospiti femminili. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono 260 gli eventi della rassegna di teatro, musica e spettacoli Trieste Estate. È stata presentata in Porto Vecchio, in Sala Luttazzi, questa mattina. Al curatore della manifestazione, Gabriele Centis, abbiamo chiesto una breve presentazione degli appuntamenti in cartellone. Trieste Estate quest'anno partirà il 6 giugno. Apriremo il Museo Sartorio con Let's Play, che è questa rassegna curata da tre teatri triestini, il Teatro Sloveno, il Teatro Miela e la Contrada, con una rassegna di teatro che durerà praticamente fino ai primi di luglio. E poi termineremo l'ultima settimana di settembre per una cavalcata di 260 eventi che saranno appunto fra il Museo Sartorio, Piazza Verdi, che sono le sedi storiche di Trieste Estate, naturalmente il Castello di San Giusto. Ci saranno molte proposte anche nelle periferie per coprire anche tutte le aree della città, con tantissime proposte anche per le famiglie e i bambini. Ci sarà anche il Giardino Pubblico, che ospiterà il Cinema Nord-Est e il Festival Shorts dei Corti, che anche ogni anno si inserisce dentro il programma di Trieste Estate. Ci saranno le produzioni prestigiose proposte dal Teatro Verdi. Quest'anno tornerà a San Giusto anche l'opera lirica con Turandot. Sarà una trasversalità per tutti i generi, per tutti i gusti, dal jazz al pop al rock. Per la musica qual è l'evento più importante di tutta la rassegna? Ma è difficile dirlo perché, come le dicevo prima, essendoci una trasversalità, potrei citare praticamente una cosa più importante per ogni genere, dicevo la Turandot per la musica lirica, ci sarà la Trieste Love Jazz, per esempio, che quest'anno è la 18ª edizione in Piazza Verdi, per esempio con Omar Hakim, che è un batterista che ha suonato con le più grandi stelle del jazz. Ci saranno alcuni appuntamenti molto importanti anche nella settimana della CEI, che ospiteremo durante Trieste estate, che proporrà in Piazza Unità una serie di artisti molto importanti nell'ambito di questa occasione, che vedrà anche fra l'altro il Papa celebrare una messa il 7 luglio qui a Trieste. Giornate conclusive per Navigando, programma di attività al Museo del Mare di Trieste, ideato dal cluster Mare FVG nell'ambito della terza edizione del Festival Mare in Friuli Venezia Giulia. Obiettivo della manifestazione è avvicinare gli studenti alle tematiche delle tecnologie marittime. Oltre 400 studenti tra gli 11 e i 18 anni in gara per far navigare i modellini navali realizzati a scuola all'interno di un canale di circolazione del CNR allestito negli spazi del Museo del Mare di Trieste. La sfida sta nel verificare l'assetto, la stabilità e la resistenza idrodinamica dei prototipi di nave di 50 centimetri. A valutarli i ricercatori e divulgatori dell'Istituto di Ingegneria del Mare del CNR. Gli studenti del BEM di Staranzano se la sono cavata molto bene. Grazie ad una vasca che simula le onde del mare in scala abbiamo per l'appunto messo in acqua questi modellini. Come si chiama la tua nave? Questa qua si chiama la Perla Nera. Perla Nera perché è un riferimento al film Pirati dei Caraibi, infatti fa riferimento a questa scena in cui la barca di Capitan Jack Sparrow in questa bottiglia e appunto quando viene messa in acqua diventa grande, no? E prende la forma reale, e questo lo possiamo comparare alla nostra barca, infatti questo è un piccolo progetto ma dove dietro c'è un grandissimo lavoro. L'obiettivo del progetto Navigando, che ha coinvolto oltre 1000 studentesse e studenti, è di avvicinare gli studenti alle tematiche delle tecnologie marittime e ad orientarli verso le professioni del mondo del mare. Abbiamo fatto il bulbo, che è stato molto complicato, l'abbiamo fatto un paio di volte. Era più o meno la prima volta che li provavamo a far andare con delle onde, però alla fine è funzionato tutto. E vi siete divertite? Sì, sì, ci siamo divertiti. Trieste, Vaciucchi, GR Friuli Venezia Giulia. I prossimi 5 giorni saranno da bollino giallo su parte della rete di autostrade Alto Adriatico. Le previsioni della concessionaria parlano infatti di traffico sostenuto a partire da domani, quando i transiti, anche a causa del ritorno dei mezzi commerciali verso il centro-est Europa, cominceranno ad aumentare in direzione Trieste, sia sull'autostrada A4 sia sull'autostrada A57, con possibili rallentamenti e code sul tratto Terraglio-Bivio tra A57 e A27 nel corso della mattinata e in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra Venezia e Trieste nel corso del pomeriggio. Uno scenario per quanto riguarda la A4 e sempre in direzione Trieste che si ripeterà anche nella giornata di sabato, mentre domenica il traffico dovrebbe mantenersi sostenuto solo nella mattinata lungo la stessa direttrice. Come detto, i flussi continueranno anche lunedì e martedì 21, anche per l'arrivo dei mezzi pesanti dai confini e per i primi rientri dei turisti d'Oltralpe. Termina qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia, per la parte tecnica, Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.